Principi. Principi o antipasto sono propriamente quelle cosette appetitose che si imbandiscono per mangiarle o dopo la minestra, come si usa in Toscana, cosa che mi sembra più ragionevole, o prima, come si pratica in altre parti d'Italia. Le ostriche, i salumi, tanto di grasso come prosciutto, salame, mortadella, lingua, quanto di magro, acciughe, sardine, caviale, mosciame, che è la schiena salata del tonno, eccetera. Possono servire da principi tanto soli che accompagnati col burro. Oltre a ciò, i crostini che vi descriverò qui appresso servono benissimo all'uopo.